Sono le 9.02 di mercoledì 28 febbraio 2024. Sto ancora abbastanza impazzendo nel cercare di mettere insieme il programma di questo corso di formazione che inizierà ad aprile qui a Roma, finanziato dal PNRR, un corso gratuito. Ci si può ancora, anzi ne approfitto per fare un po' di pubblicità. È la prima volta che si fa pubblicità su Pendoliri, credo. E c'è ancora tempo fino al 4 marzo, mi verrebbe da dire, per iscriversi al corso per comunicatori in rete di audiovisivi e materiale d'archivio. È organizzato dal Cinecittà Lab, trovate il bando sul sito di Cinecittà Lab, e quindi diciamo che c'è parecchia anima dell'Istituto Luce lì dentro. Non è semplice mettere insieme il programma, lo stiamo facendo insieme all'amico sodale ed espertissimo di archivi e social media, che è Bruno Mastroianni. Perché si tratta non solo di strutturare un programma, ma anche di farlo forse in un contesto dominato da una cultura nemica degli archivi. La cultura della comunicazione pubblica lo è, a partire dalle aziende, che dove magari uno si immagina che chi esce da un corso come questo vorrebbe andare a lavorare, no? Per esempio la comunicazione dell'archivio aziendale. Ci sono aziende che hanno fatto un lavoro straordinario, no? Come Olivetti, in questo senso, avendo capito che l'eredità di quell'azienda è qualcosa di grandissimo valore. Altre aziende invece sono ancora come sommerse da questa forma di veterofobia, veteroclastia, chiamatela come volete. Cioè, se andate sui siti delle grandi aziende noterete che c'è proprio il terrore che salti fuori una pagina vecchia, no? E questo nonostante il fatto che una delle caratteristiche di internet è quella di legare sempre la data di pubblicazione al contenuto. Quindi diciamo che se una persona ha mediamente un QI superiore a 50 riesce a capire quando è stata pubblicata una pagina, e quindi non è che se la prende con il webmaster perché non è nuova. Ecco, questa cosa di dover essere sempre nuovi e di pensare che il ciclo di vita di un contenuto sparisca è una delle principali responsabili del fatto che tantissimi link, ormai la maggioranza dei link statici di internet che doveva nascere come archivio naturale, sono link rotti, e soltanto grazie al volontariato di organizzazioni come archive.org, che non smetto mai di ricordare, che sono oggi in larga misura recuperabili, no? Anche i siti che qualcuno ha buttato giù. E le ragioni che spingono le persone a prendere decisioni sempre in questo senso, cioè eliminare tutto ciò che ha più di un anno di vita, per esempio, sono le più varie. Io diciamo che speravo, lavorando in questo settore, di trovare delle ragioni professionali, ma quello che vedo sono delle motivazioni istintive, ormonali quasi, quasi delle malattie psicologiche, no? Una delle più frequenti è la cosiddetta sindrome di Beria, cioè dato che la vita di un'azienda cambia, e cambiano naturalmente i protagonisti, cambiano le scelte, cambia l'impostazione, è chiaro che tutto ciò che appartiene a un'epoca precedente può generare imbarazzo nella committenza, no? Che magari è il nuovo gruppo dirigenziale. E questo si incrocia un po' con l'altro grosso problema, che è la sindrome di Bartali, cioè che quando arriva qualcuno deve subito dire che è tutto sbagliato, è tutto da rifare, e quindi la memoria storica, digitale, di quello che non solo un'azienda, ma purtroppo anche un ente, una fondazione ha fatto, a volte viene eliminata così, con un colpo di mouse. Se andate in giro vedete che ci sono per esempio alcuni volenterosi su internet che hanno provato a fare delle pagine in cui raccolgono i link a tutti gli archivi online, e salvo rarissime eccezioni molto lodevoli, tantissimi di questi archivi a un certo punto sono stati proprio cancellati, non sono più raggiungibili, cioè danno errore 404. E questo dà la misura della totale insipienza di chi non si rende conto di che cosa vuol dire, no? Togliere un pezzo di qualcosa in una rete dove qualcuno magari avrebbe bisogno sempre di poter atterrare. E dietro c'è, temo, tutta la nostra cultura profondamente televisiva che continua a ingabbiarci e lo farà ancora per parecchi anni. Però, insomma, nel corso cercheremo almeno di tirar fuori 18 persone con una cultura diversa.